24 mattino. Non posso più dire stai sereno a nessuno. Se dico stai sereno, uno mi querela. Cioè, è una cosa. Dicevo scherzando, ho detto l'altro giorno stai sereno a uno. No, ma che t'ho fatto? È bello che ci credevo davvero, dicendo stai sereno, non ti preoccupare, una soluzione si trova. E vabbè. Beh, numero uno, perché si può pensare tutto di Matteo Renzi, ma questa butade di ribaltare la sua gaffe in un messaggio appealing, come si dice, non so come si dice così, beh, questa è veramente una grande trovata. Non posso dire stai sereno a uno che quello si offende. Allora, 7, 21 minuti, 17 secondi, i vostri messaggi al 349-238-6666. I vostri messaggi in segreteria, quelli più densi, più profondi, più interessanti, 02 30 22 44 92. E fra poco alle 8 le vostre telefonate al numero che sapete, quando arriverà il momento dei cani e dei gatti. Allora, oggi puntata dedicata, è la nostra bandiera, ad Anna Frank. Bye Anna. E parto dal romanista che definisce grottesco, oggi citiamo il romanista, definisce grottesco questo insulto, e ovviamente hanno ragione tutti quelli che dicono come può essere considerato un insulto essere accostati ad Anna Frank. Allora, il cuore della rassegna stampa ancora oggi è il Veneto, questione cruciale per quel che riguarda l'identità nazionale, il futuro della regione, la richiesta dello statuto speciale. Allora, cominciamo subito con il titolo della Verità, che è su questo tema: signori di Roma, sì, nel senso del sì, cambia. Catenaccio. Dopo il successo del referendum, l'autonomia è un diritto non solo per quanto riguarda sanità, istruzione, giustizia e burocrazia, ma anche per un sistema fiscale che non ammazzi le aziende. Chiosa, il referendum però non era per l'autonomia, era per aprire una negoziazione sulla cessione di alcune competenze alle regioni. La sberla dal Lombardo Veneto e il fondo di Belpietro è un ultimo tentativo di svegliare il paese, mentre Stefano Lorenzetto, direttore editoriale della Verità, più che l'autonomia ha vinto San Marco. Il Giorno. Pensionati, addio rimborso. La Corte Costituzionale dice che gli assegni devono essere adeguati al costo della vita, e oggi però la Consulta boccerà, secondo il Giorno, il ricorso. Prevale la salvaguardia dei conti dello Stato, mentre, come sapete, si discute molto di questo adeguamento. Quindi, secondo il Giorno, non ci sarà. Sarà sicuramente vero. Repubblica, Veneto, la secessione morbida che rimane senza sbocco. È un punto di vista invece qui critico, molto critico sul nord-est, ma ci sono tante opinioni. Le mappe diversi dal nord-est di Ilvo Diamanti, lo scenario, la slavina europea di un francese, Marc Lazar, il reportage come lontana Barcellona di Ettore Livini. E poi c'è questo fotomontaggio che ha citato Mario Giordano, che farà discutere. Siamo tutti Anna Frank, e Anna Frank ha la maglia della Roma, della Lazio, dell'Inter, del Milan, della Juve e del Napoli. Vai. Corriere della Sera, statuto speciale al Veneto, fra virgolette, la richiesta di Zaia, il governo, provocazione Maroni, la trattativa può cominciare. La sciabolata bastonata di Ernesto Galli della Loggia su Renzi, Banca Italia, l'autogol politico, Occhiello, l'errore di Renzi. Guardate che per il Corriere della Sera è molto dura. Una posizione così netta, così caustica. I tormenti di Bonucci, ho chiesto scusa, è il titolo della Gazzetta dello Sport. No, vi dicevo che il romanista, prima colto dai dettagli, il titolo è molto bello. Va de retro, cretini. Il Tempo, e adesso l'Indipendenza. Parla il Serenissimo del comando armato che assaltò il campanile di Venezia. Qua vi divertirete con Contin, che chiede l'indipendenza. Zaia, lo saluto speciale. Flop, voto elettronico in Lombardia, 23 milioni di euro buttate via. Il Fondo, di Luigi Bisignani, Erpomata farà strada. Erpomata sarebbe Zaia, credo, per la sua acconciatura tricologica. Avvenire, autonomia come? E poi l'editoriale di Marco Olivetti, il cuore del problema. Il Giornale, nebbia in Val PD sugli effetti del referendum in ovviamente sulla sinistra, il fondo di Sallusti, Berlusconi, il federalismo non è contro l'unità del paese. La Stampa: più poteri al Veneto, sfida Zaia governo, il governatore evoca lo statuto speciale, la replica sarebbe una pre-secessione. E vi dicevo che il Foglio ha un'apertura, va bene, sul Papa, ma il pezzo importante sul voto in Veneto è sfascisti azzoppati dal referendum. Sfascisti. Il Corriere dello Sport, sempre più Roma, arriva Cardos, il terzino che tutti aspettavano, e poi ovviamente il titolo di apertura è anche questa volta, quindi i quotidiani sportivi oggi vigilano molto bene, Olimpico, caso shock, Anna Frank con la maglia della Roma, ultra della Lazio sotto accusa. Beh, si dice tanto, devo dire, i giornali sportivi oggi hanno veramente, come dire, bastonato questo gesto, e questo mi rende molto contento. Restano due giornali, il Messaggero, prove di secessione mascherata, vedete quanto è duro il quotidiano di Roma sul referendum, con il fondo di Viesti, la deriva nordista in salsa catalana, questo titolo potrebbe avere strada. E non ce vonno sta, Libero, che fa il verso al romanesco con il direttore Pietro Senaldi. Dai, sentiamolo Senaldi. E non ce vonno sta, è molto carino. Pietro Senaldi, Zaia e Maroni, forti dei milioni dei sì, chiedono di aprire subito la trattativa con il governo per l'autonomia speciale. Il PD mette i paletti, sulle tasse non si tratta, desidera continuare a mungere il nord e fregarsene dei cittadini. Allora ricordatevi i messaggi 349-238-6666, perché vedo che state intervenendo in tanti su questo tema. Come si declina questa autonomia? Cosa fare? Allora volevo partire dall'intervista del serenissimo Contin al Giorno, che dice che lui ha votato e che teme però che Roma possa fregarsene ancora una volta delle richieste del nord, e racconta questo dettaglio sublime. L'indipendenza. Abbiamo votato sì con la speranza che questo referendum sia propedeutico all'indipendenza. Ora, per chi non ricorda la storia, Flavio Contin era il più anziano componente del comando che scalò per protesta il campanile di San Marco dopo aver montato un tanco, cioè un carro armato. Ecco. E penso che da lì, cioè dall'indipendenza, si possa arrivare il giorno, Gabriele Moroni, pagina 7, si possa arrivare a uno Stato confederale sul modello della Svizzera o dei Lantedeschi, altrimenti l'Italia farà la fine del Titanic. In una quarantina abbiamo fondato un movimento, Alleanza dei Popoli delle Alpi, dalle Alpi al Mediterraneo, e il 31 ottobre saremo processati in Corte d'Assisi a Brescia. Anche lì con una storia del tanco, sì. Veramente, quella sequestrata il 24 aprile era una ruspa corazzata, sarebbe servita per un'operazione non violenta, solo dimostrativa. In linea di massima saremmo andati a Riva degli Schiavoni a buttare giù il monumento a Vittorio Emanuele. Ale, l'epoca del tanco è finita a Brescia, lo avevamo messo in conto che al 90% sarebbe mancato l'elemento sorpresa, magari per una delazione. Questo è Contin, ma il dibattito invece sull'indipendenza, l'autonomia è molto serio, e entriamo nel dettaglio dopo il meteo, fra pochi istanti. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. State ascoltando un programma offerto da... Dottor Jay e Mister Ai, trasforma la tua azienda con Jay Galileo e Power 8, jaygalileo.com. Mattino. E non ce vonno sta, il titolo di Libero, 7:35 minuti, 01 secondi, Vittorio Feltri punta il dito sui Democrat, che sarebbero i democratici, quelli del PD. Voi Democrat siete bravissimi nel saccheggio del nord e nello sperpero del bottino. Lo dimostra la circostanza che con i denari sottratti a noi non siete stati in grado neppure di sollevare il sud dallo squallore in cui si trova da sempre. Beh, oh, squallore. 3, pagina 3, Libero. Spendete, spandete capitali, iniziative idiote, mortificate le aziende e chiunque intraprenda, investite nell'assistenzialismo sprecone, se gli ospedali meridionali sono come macellerie e se i degenti sono divorati dalle formiche, la colpa non è dei valligiani orobici, bensì vostra, dei politici pasticcioni ai quali preme soltanto la conservazione del posto in lista. Vittorio Feltri, ma Martina è eletto al nord, è un milanese doc, ma di che stiamo dicendo? Ora siamo diventati nord contro sud in 24 ore. Allora, vi dicevo, i due dati che bisogna sapere, dal Corriere della Sera che li ha estrapolati bene. Affluenza del referendum nella zona di Milano, 26,4%, la più bassa di tutto il nord, quindi la capitale morale del nord si è sottratta al referendum. Mentre invece il punto più alto, sono andato a vederlo perché è interessante, Rovere Veronese, il record. Sapete quanti hanno votato lì? 76,2%, cioè mancavano i bambini e gli anziani e lì hanno votato tutto. Ma andiamo subito su il Corriere della Sera, la rivincita della Liga, Gian Antonio Stella, perché racconta come questo successo molto diverso, molto maggiore in Veneto sia figlio della storia della Liga, di cui come sapete Stella è un esegeta. Eppure i primi a tirar sulla testa, autonomisti, erano stati i veneti. Racconterà Mistico Franco Rocchetta: la prima volta che dissi che volevo fondare la Liga fu il 18 agosto 68, pensate, nella chiesa di Santa Maria di Danzica. Conosceva il polacco? Chiede Stella. Neanche una parola. E allora, come cominciai a parlare, le parole presero a sgorgarmi, naturalmente. Polacchi a parte, i pionieri veneti decisero di dar vita al lontano dicembre 79 a un partito che si trattenesse in difesa della lingua, dei costumi e delle tradizioni venete. Pensate, parte da lì, la Lega nasce nell'87, è una radice antica quella che ha prodotto questo risultato. Ha ragione Stella. E questo, come riconoscono gli avversari, il Corriere, pagina 5, è forse il vero miracolo compiuto da Luca Zaia. È tutto un articolone, ne leggo una parte, però consiglio la lettura. Forzando sul referendum, essere riuscito a tenere insieme al voto di domenica, senza sventolare troppo la bandiera del partito, tante anime diverse, i fedelissimi e gli scontenti, i tiepidi e gli entusiasti e perfino un po' di espulsi che comunque sono riusciti a ritrovarsi. Oltre a tantissimi che, come dicono i numeri, non sono mai stati leghisti e magari non lo saranno mai. Gli sarebbe andata bene, dirà lui, anche se l'affluenza fosse stata altrettanto massiccia in Lombardia. Il distacco sui lombardi, però, non è solo uno sfizio supplementare, c'è molto di più, molto molto di più, perché racconta Stella, la storia della Lega è anche la storia della lotta fra i veneti e i lombardi, con il Lombardo Bossi, il Lombardo Maroni, il Lombardo Salvini e tutti gli espulsi da Rocchetta in poi, a Contini, a tutti gli altri che invece erano parte della Liga. Allora, questa è la storia di Vico, pagina 2 e 3 sul Corriere della Sera, mentre ci carica molto questo blues alle nostre spalle. Noi siamo un po' blues e un po' rocchettoni. I due nord alle urne con Milano lontana dalla provincia. E racconta Di Vico la geografia di questo voto e traccia un'identità fra due diverse anime del nord. Una traccia di risentimento la troviamo con maggiore certezza nel voto vicentino, scrive Di Vico il Corriere, pagina 4. Quell'affluenza al 52% anche nel capoluogo riflette gli umori dei risparmiatori traditi dall'allora Banca Popolare che hanno trovato nell'urna di domenica il modo di schierarsi contro l'establishment romano. Il localismo dei veneti non risponde però a un univoco sentimento di sconfitta. Marca più identità, diverse dal cosmopolitismo liberal e dal design fashion dei milanesi. Una presa di distanza abilmente pilotata da Zaia e dal suo leghismo, qui un'altra definizione, a trazione democristiana, attento agli interessi minuti dei piccoli proprietari di vino e del turismo, avverso per DNA al capitalismo cosmopolita della capitale, che in questo caso sarebbe Milano, che, non dimentichiamo, nel nord-est vanta due colossi come Luxottica e la Galassia Benetton. È sintomatico, scrive Di Vico, l'appoggio dato al referendum da quasi tutte le organizzazioni di rappresentanza del ceto medio produttivo. Il voto dunque ci consegna, oltre al rischio di una profonda divaricazione fra economia e politica, due nord. Uno che vuole l'EMA, prepara, sogna per le multinazionali tascabili ulteriori traguardi, e l'altro che punta le sue carte sul contenzioso fiscale con Roma e sullo statuto speciale. Due nord, uno più tecnocratico e uno più autonomista. Allora, Guerri sul giornale, Guerri racconta ieri di aver fatto un tweet, il titolo Nebbia in Val PD, ma l'Italia è una anche se litigiosa. Un mio tweet di ieri, scrive Giordano Bruno Guerri, sul giornale, pagina 1, ha suscitato un'attenzione sorprendente, come se si è voluto creare chissà quale polemica. Diceva, 1866, plebiscito in Veneto per l'annessione all'Italia. 151 anni dopo, e segue a pagina 8, inizia il distacco. La questione è storiograficamente complessa e non si esaurisce in un tweet. Però è curioso che nessuno abbia preso in considerazione il vero succo di quello che volevo dire, e cioè che con il referendum dell'altro ieri inizia il distacco non soltanto del Veneto, ma anche della Lombardia. Le secessioni, racconta Guerri, che come sapete è storico, avvengono a piccoli passi progressivi finché si arriva a un punto di rottura. Non è detto che in Lombardia e Veneto si arrivi a questo punto, ma di certo l'appetito viene mangiando e si vede dalle prime dichiarazioni di Zaia. Conclusione di Guerri: lo Stato italiano non è forte, tantomeno al proprio interno, e non saprà difendere la propria unità, come non ha saputo realizzare, errore capitale, un vero federalismo. Concessione dopo concessione, una qui, una là, una su, una giù, finirà per arrivare a una situazione di non ritorno. Del resto, conclude Guerri, è scomparso l'impero romano. Vuoi che non scompaia un giorno anche l'Italia? Ma questo è un altro tweet. Sarà così? Però vedete come si precipita nella guerra della carta, come si va velocemente verso una escalation. Galluzzo spiega la posizione del governo, che sembra un po' rigida oggi. Il governo sfida giusta, ma non ha fini politici. L'esecutivo avvierà per primo la trattativa con l'Emilia Romagna. I tempi restano ancora un rebus. Volete scommettere che se ne parla molto molto dopo il voto? Insomma, scrive Galluzzo concludendo il suo pezzo, un mare di incertezze che a Palazzo Chigi dichiarano con una punta di imbarazzo. Del resto non esiste una legge d'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, se ne occupa solo un comma, il 571 della legge di stabilità del 2014, che fissa, e questo è molto importante, in 60 giorni dalla richiesta della Regione il tempo per aprire la trattativa. Ecco, il governo deve attivarsi. Per il resto sulla procedura è buio pesto, e quella con l'Emilia Romagna è la prima che inizia. Ci avevano provato anche Piemonte e Toscana anni fa, scrive Galluzzo, il Corriere, pagina 6, ma senza esito. Saranno interessati la Farnesina, le infrastrutture, il Ministero dell'Ambiente e dell'Agricoltura, il MEF, perché tutto deve essere, questo scrive Galluzzo, secondo il governo, fra virgolette, a costo zero per lo Stato. Le posizioni di partenza sono inconciliabili, però guardate che vi dovete annotare questo articolo. Si lavora secondo l'attuazione del comma 571 della legge di stabilità del 2014, quella che governa questa procedura mai realizzata. Folli su Repubblica, pagina 29, e andiamo a esaurire questa pagina che però oggi devo dire è interessante. Ecco che cosa dice: a differenza del collega Lombardo, il pragmatico Maroni, ecco che Zaia chiede per la sua regione lo statuto speciale, come il Trentino Alto Adige, la Val d'Aosta o la Sicilia. Era questo il quesito proposto agli elettori? Per nulla. Lo statuto speciale richiederebbe, fra l'altro, una modifica della carta costituzionale. Viceversa, il referendum consultivo si muoveva nell'ambito dell'articolo 116 della Costituzione e il passaggio previsto dalla legge volto a promuovere la piena attuazione dell'autonomia regionale. La forzatura del Veneto è emblematica di come la Lega intende sfruttare la vicenda in chiave elettorale. Ma quale Lega poi? A quella del monarca Salvini si affianca oggi il carroccio moderato di Maroni e il sogno della Repubblica Serenissima di Zaia. L'ultimo frammento di questo articolo, il fondo di Folli che prosegue a pagina 29 di Repubblica, riguarda ovviamente il PD. avrebbe bisogno che il PD gli offrisse una solida sponda, ma il partito di Renzi sembra incerto sul da farsi. C'è il sindaco di Bergamo, Gori, che spinge, lui lombardo, per non lasciare a Maroni il monopolio della spinta autonomista. E c'è chi, come Martina e altri, teme la deriva catalana insita nella posizione di Zaia. Nella sostanza, il centro-sinistra si è fatto sorprendere dopo aver a lungo sottovalutato il referendum. Strade! Ciao papà, sei obeso. Mattino 7:47 minuti 48 secondi. Arrivano tanti messaggi, alcuni li devo leggere subito. Senti un po' questo che mi arriva addirittura da un ascoltatore che dice: in verità, da commercialista che opera a Verona, ti dico che gli imprenditori veneti sono stanchi di andare in agenzia delle entrate e trovare solo funzionari meridionali. Hanno la sensazione che vengano spediti al nord per spremere i contributi. Non sono funzionari meridionali che arrivano dal regno delle sue Sicilie per succhiare la gabella, sono funzionari dello Stato italiano. Quando io vado in una scuola, in un ufficio postale e sento una persona che parla un accento del nord, penso che sia un funzionario italiano. Pensatelo anche voi. E un altro che mi dice: non fare l'ipocrita, il sud è orribile. Che cosa dici orribile? Ci sei mai stato? Ci sono tanti sud. Vai a Scampia e trovi un sud, vai in Puglia, vai a Polignano a Mare, vai a vedere le eccellenze e impari qualcosa. Allora, importantissima la nota di Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, che ci spiega come il calendario modificherà la politica italiana. È vero che la vittoria al referendum di domenica in Lombardia e Veneto rafforza la Lega, soprattutto la sua antica battaglia sul nord che ora torna d'attualità. È vero però che fra due settimane c'è un altro voto importante. Il 5 novembre si aprono le urne in Sicilia e se anche l'isola dovesse spalancare le porte al centrodestra, la campagna elettorale verso il voto di marzo partirebbe già con un vincitore potenziale, il centrodestra. E attenzione, con un centrodestra forte al sud, come ci spiega Lina Palmerini sul Sole, pagina 5, dove è forte l'area che si raggruppa intorno a Forza Italia e centristi, e forte al nord, dove si fortifica l'area che cresce intorno alla Lega. Beh, un bel successo del Partito Democratico, non c'è ombra di dubbio se questo è lo scenario che ci consegneranno le elezioni siciliane. E passiamo alla Boschi, conflitto di interessi, pagina 11, che cosa succede? Cioè che i Bersagnani l'hanno messa in mora e chiedono che non partecipi Maria Elena Boschi al Consiglio dei Ministri in cui si decide la sorte del governatore della Banca d'Italia. Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 11. Arturo Scotto chiede che la sottosegretaria non partecipi al Consiglio dei Ministri perché su di lei grava, fra virgolette, una pesante ipoteca, il conflitto di interessi che non può più essere ignorato. Considerato che anche per le attività del padre Luigi, in qualità di ex vicepresidente di Banca Etruria, continua Scotto, citato dalla Meli, sono state a lungo oggetto le sue attività di vigilanza bancaria e finanziaria operata da Palazzo Koch, cioè da Banca d'Italia. E invece la sottosegretaria sarà presente alla riunione per la nomina del governatore. Non ha intenzione di nascondersi e men che meno di stare appesa al chiacchiericcio. Bene, vi abbiamo raccontato della Sicilia, quello che succede intorno alla Boschi, e sul Corriere Gallia, pagina 28, ci racconta... Scusate, ci devo arrivare. Il caso di Banca Italia e l'autogol politico. Galli e La Loggia sostiene che dopo il 4 dicembre il segretario del PD è ancora alla ricerca di una nuova linea politica in armonia con la sua ispirazione originaria, così come di una nuova e più convincente cifra stilistica personale. Ma prendersela con la Banca d'Italia, scrive l'editorialista del Corriere, pagina 28, non aiuta di certo a trovare né l'una e neanche l'altra. Money! Torna un altro bonus. Qua non si riesce proprio a stare dietro a tutti i bonus, però ne torna uno che ha funzionato. Allè. Bonus mobili. Sto leggendo l'apertura di pagina 2 del Sole. Giuseppe Latour. proroga secca al 2018, conferma totale anche per l'incentivo al 50% sulle ristrutturazioni e, pensate, fino all'85% sull'antisismica. Quindi queste sono cose che riguardano i vostri soldi. Se dovete ristrutturare, questo è il momento, detraete il 50%. E spiega la Tour sul Corriere della Sera, il testo del DDL è atteso in Parlamento fra domani e giovedì, ma vi rendete conto che ancora non c'è questo testo? Si prepara così a restituire un quadro delle agevolazioni fiscali profondamente rinnovato dopo gli interventi del governo. Tre conferme, bonus, nuovi e sconti riconfermati, ci sarà una cornice di diversi sgravi a cui si può accedere. E allora, se volete saperne di più, ovviamente il Sole 24 Ore, pagina 2, e poi soprattutto a pagina 3, un'altra nota di anticipazione sulla legge di bilancio: i PIR risvegliano il settore immobiliare. Indeciso rialzo ieri il comparto Piazza Affari, analisti positivi, vitale iniezione di risorse. Paolo Dezza, l'apertura di pagina 3, e c'è anche un bellissimo schema riassuntivo che spiega come si raccolgono questi miliardi di euro intorno all'immobiliare. Allora, la Maggioni sulla Verità, c'è una, pensate, potremmo persino discuterne dopo, c'è una petizione per chiedere alla Maggioni di non trasmettere, pagina centrale di della Verità, e il richiamo è a pagina 12. È una petizione per chiedere alla Maggioni basta con gli spot per l'utero in affitto. Dopo l'ennesima omelia di Michela Muggio a TV Talk, femministe e lesbiche si appellano a Viale Mazzini, stop alla disinformazione. Francesco Borgonovo, La Verità, dà voce alle femministe. Pagina 12, molto importante, perché le polemiche sulla vita civile sono importanti. E una notizia importantissima da Avvenire: c'è stata una contestazione a Genova di Monsignor Bellaspiga. Perché? Perché ha portato anche lui degli immigrati nel suo centro, manifestazioni pro contro, grande grandissimo scontro, e la posizione di questo sacerdote, che malgrado le polemiche tiene duro e dice veniteli a conoscere, Monsignor Giacomo Martino, scusate, chiedo a tutti, il pezzo di Lucia Bellaspiga, di interrompere ogni manifestazione da entrambe le parti, ci sono state fiaccolate pro e contro l'accoglienza, i 10 ragazzi sono nel nostro asilo da giorni, ora abbiamo due alternative, incontrarli e mi faccio garante o girarci dall'altra parte e lasciarli in pace. Giornale Radio. Radio 24, c'è Luca Telese, una volta al mese, no, tutti i giorni di primo mattino, c'è anche Oscar Giannino.